Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, l'immigrazione va controllata, graduata e armonizzata. Poi si possono fare ragionamenti etici, filosofici, sociali, eccetera. Avevamo bisogno di un premier problem solving. Ce l'abbiamo. La maggioranza l'ha voluto e la maggioranza se lo vuole tenere. Non ci servono i filosofi in questo momento. Non vogliamo un'Italia allo sbando come adesso la sinistra. Vogliamo un'Italia ordinata e civile. Prima sistemiamo casa nostra e poi lasciamo entrare gli ospiti. È così semplice. Io non capisco come ci sia ancora gente in Italia che ha 3 lauree e però ragiona come un asino. Cordialmente, Michele. 3 domande. 1. I clandestini che pagano cifre esorbitanti alle organizzazioni criminali per poter entrare in Italia sulle carrette del mare o sui barconi. Perché con quelle cifre non entrano attraverso le vie ufficiali, aereo o nave, come turisti? Oppure perché non richiedono asilo politico alle nostre ambasciate? 2. Se ho una badante clandestina, che ovviamente pago in nero, senza garantirle le contribuzioni sociali, in nome della mia appartenenza a uno Stato multietnico e favorevole alla massima integrazione razziale, magari mi perdonano anche se sono un evasore fiscale? O addirittura mi premiano? 3. Se ne fanno tanti, quindi perché non organizzate un sondaggio tra gli stranieri che lavorano regolarmente in Italia e pagano le tasse e sono ben integrati? Chiediamo loro cosa ne pensano dell'argomento oggi più importante e che non fa dormire i maggiori politici italiani. Io non credo siano così favorevoli a un'immigrazione senza regole. Grazie, Carlo. Gentile direttore, qualche sera fa ascoltavo nella Zanzara l'idea che l'Italia ha bisogno di immigrati perché servono alla nostra economia. Spesso però chi li usa li sfrutta con stipendi minimi. Gli italiani non vogliono più fare i loro mestieri, ma siamo sicuri che non li farebbero a condizioni migliori e stipendi più alti? Inoltre siamo sicuri che i figli degli immigrati vorranno fare il lavoro dei loro genitori? Io penso di no. E si riproporrà anche in Italia quello che sono le banlieue francesi. Una schiera di giovani ghettizzati, che non vorranno gli stessi lavori sottopagati dei loro genitori, ma senza la possibilità, per la maggior parte di loro, di lavori migliori. Andrea. Grazie alle norme in vigore e alla straordinaria lentezza della burocrazia in questo settore, è quasi sempre impossibile per un immigrato non europeo arrivare in Italia regolarmente. Ed è quasi sempre impossibile per un datore di lavoro assumere un immigrato affidandosi alle procedure previste dalle leggi in vigore. L'unico modo di venire a lavorare in Italia regolarmente è possedere la garanzia di un contratto di lavoro. Ma chi farà un contratto di lavoro a una persona che non conosce? In un paese dove se sei autoctono e hai tutte le qualifiche del caso, un contratto te lo fanno solo dopo qualche annetto di precariato al nord o qualche lustro al sud, motivando il tutto con un necessario periodo di prova. Ammesso che io abbia una necessità di lavoratori tanto urgente da dover assumere una persona che non conosco, ecco quello che dovrei fare. Aspettare che il governo stabilisca il numero delle persone che possono entrare in Italia, le famigerate quote, e fare la mia domandina. Sperare che la persona che io ho deciso di assumere rientri nella quota stabilita per quell'anno dal governo. Attendere che la persona, una volta che sia riuscita a sapere di essere rientrata tra quelle autorizzate, espletate tutte le formalità necessarie presso le autorità del suo paese di provenienza e le rappresentanze diplomatiche italiane, ottenga alla fine visto e passaporto, parta e venga in Italia. E nel frattempo, io che faccio? Con chi sostituisco il lavoratore che mi manca? La legge vigente mi impedisce di fare un contratto a un lavoratore che non ha il permesso di soggiorno, quindi la mia unica chance è fregare un lavoratore regolare a un mio concorrente. Nel caso in cui un lavoratore regolare perda il lavoro e non riesca entro 6 mesi a produrre un contratto di lavoro della durata minima di 6 mesi, la legge vigente prevede la perdita del soggiorno e il conseguente ritorno all'irregolarità. Essere per un po' irregolari o produrre documenti regolari che rientrano nella fattispecie del falso originale sono gli unici modi con i quali in Italia si passa dall'essere venuti qui per delinquere all'essere venuti qui per lavorare. La maggior parte dei regolari, quelli rispettabili, sono arrivati in Italia con un visto turistico che è scaduto dopo qualche settimana. Hanno passato il confine con un barcone, una nave, un gommone. nascosti come topi nel doppio fondo di un camion, legati sotto un treno a rischio della vita, con un pullman o una macchina e un po' di soldi per le guardie di frontiera, per mille strade faticose e talvolta molto umilianti. E anche quelli che sono arrivati grazie alle quote, spesso hanno dovuto pagare. Giuseppe. L'ONU è quello che negli ultimi 15 anni, per non andare troppo indietro, non ha saputo arginare una crisi umanitaria che fosse una. A Srebrenica si è fatto da parte sapendo che un macello sarebbe accaduto. E in Darfur, in Ruanda, in Sierra Leone, Eritrea, Somalia, che ha fatto l'ONU? L'ONU è quell'organismo che, con la motivazione bizzarra di responsabilizzazione democratica, spesso affida a dittature la presidenza di sue commissioni, anche quelle che dovrebbero promuovere tolleranza e rispetto dei diritti umani. Non capisco come possano pretendere di fare la morale a un governo come il nostro, che, anche se non l'ho votato, è comunque espressione di democratiche elezioni, mentre chinano sempre il capo davanti ai regimi dittatoriali. La strampalata uscita di La Russa, forse, volendo trovare una logica a tutti i costi, vuole essere un'uscita polemica sulla Spagna di Zapatero, che i clandestini li ha presi a cannonate e a Ceuta ha eretto un muro. Quindi, secondo lui, è inspiegabile che Zapatero sia un mito del centro-sinistra e il suo governo, che non ha ancora cannonato nessuno, sia un regime fascista. Saluti, Roberto. Direttore, senta un po' in cosa mi sono imbattuto nei giorni scorsi. Glielo leggo. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza a uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese, donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché sono poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e coloro che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Non le sembra, caro direttore, un'ottima relazione che fotografa la presenza degli immigrati in Italia oggi, nel 2009? Invece è un documento dell'Ispettorato dell'Immigrazione del Congresso degli Stati Uniti d'America, datato ottobre 1912. Questo documento ha anche un titolo: Relazione sugli immigrati italiani. Cordiali saluti, Francesco. Caro direttore, da sempre si discute per adeguare gli stipendi al costo della vita. Mi chiedo perché una volta non si prova a invertire l'ordine dei fattori, cioè ad adeguare il costo della vita agli stipendi. Rudy. Io proprio non ce la faccio a godere per questi scudetti. Voglio dire, è vero che ci sono i Cambiasso, i Cesar, i Maicon, i Cordoba, gli Zanetti e gli Stankovic. Ma il volto di quest'Inter è senza dubbio Ibrahimovic, che purtroppo non ha a cuore né l'Inter né i tifosi, ma solo se stesso. Non lo so, dico solo che avevo più passione nel vedere, quando avevo 18 anni, l'Inter di Zenga, di Bergomi, di Nicola Berti e Ruben Sosa. Mi hanno dato molte più emozioni le due Coppa UEFA vinte contro Lazio e Salisburgo grazie a Ronaldo, Zamorano, Bergkamp e Jonk, quando l'immagine dell'Inter non era un giocatore svedese, anche se forte e talentuoso, ma un uomo di vero talento chiamato Beppino Prisco, un vero ex interista, Andrea. Gentile direttore, io non voglio nemmeno entrare nelle inutili polemiche sul razzismo. Le dico solo come la penso. Se si vogliono fare le cose seriamente, si può fare così. 1. Si aprono uno o più centri profughi in Africa, sotto l'egida dell'ONU, non in Libia. 2. I profughi si dichiarano come tali, con le loro competenze. 3. Se c'è lavoro, saranno chiamati. Cordialmente, Giuseppe. Caro Giuseppe, la sua proposta si ispira alla ragionevolezza e insieme all'umanità. È la strada che l'Italia ha seguito con l'Albania, consentendo l'immigrazione controllata e spostando all'interno di quel paese i luoghi di informazione e raccolta. Per l'immigrazione africana, una soluzione di questo tipo è tuttavia enormemente più complessa, perché gli immigrati non vengono da un solo paese, perché i paesi dell'area hanno un controllo molto limitato del loro territorio, perché gli spostamenti vengono gestiti da organizzazioni mafiose e criminali che hanno l'unico interesse a alimentare questi viaggi della speranza che si trasformano spesso in viaggi della disperazione. Le Nazioni Unite fanno molto e potrebbero fare di più, ma è forse l'Unione Europea che su questo fronte dovrebbe assumersi maggiori responsabilità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.